un derby giocato alle 5 di pomeriggio a luglio è sempre una partita a rischio, quindi vediamo di recuperare energie, un po' di tirar fuori prestazione e risultato, e in quella probabilmente sarà una fornace. Sentivo fa polemiche sulle 21:45, che è l'unica ora in cui in Italia a luglio-agosto si può giocare a calcio. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. We did not win the championship, so I have failed, we have failed. In the end, it's quite simple, we were not quick enough. As a team, we were not as strong as Mercedes. I've learned a lot, a massive amount with Seb as a teammate, and I will continue to until the end of the season. So we had our on-track battles, and sometimes it didn't end the way we wanted, but there was always respect off-track. You expect both drivers to help each other out. I don't think that has anything to do with the fact that my contract expires and I'm going to leave the team. Obviously, you're racing for yourself, so we have been fighting each other in the past and we will continue to do so. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. È compleanno di merda. Sì, di tutto questo parleremo. È stato bellissimo vedere i primi giri di pista della stagione, almeno fino a quando non è uscita la prima classifica dei tempi. Lì meno, è stato un po' meno bello. Oh, la mia amica Mara San Giorgio di Sky è l'inviata più fortunata del mondo, unica presente lì. Ciao Mara. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao. In effetti mi sento un po' fortunata. Privilegiata, un po', toglilo un po'. No, io voglio chiederti subito una cosa. Ti ho visto prima su Sky in Total Black, mascherina compresa. Voglio sapere se è un omaggio al Figlio del Vento, protagonista del tuo libro. No, non è un omaggio a Lewis Hamilton, anche se il look è molto simile, visto che anche lui ha scelto Total Black. Ma Carlo, ovviamente sono misure e regole molto ferree, molto rigide, che la Formula 1 ci ha imposto e ci sta imponendo per lavorare. Io so che forse visibilmente non è particolarmente bello, forse spaventa anche un po' rivederci ancora lavorare con le mascherine, ma se questo è un buon modo, sì, è l'occasione per la Formula 1 di ripartire, insomma, ben vengano anche le mascherine, il distanziamento sociale, lo abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo nella nostra vita quotidiana, certo, che sia un punto di partenza per poi magari migliorare. Chiaro, che effetto fa la Formula 1 dentro la bolla? Fa un effetto un po' strano, devo dirtelo, tutto un po' ovattato, forse anche dal fatto che siamo veramente il minimo indispensabile per poter lavorare, non solo noi in quanto media, giornalisti, anche i team di Formula 1, sapete bene che hanno avuto un numero imposto dalla federazione per venire in pista, sono 70 gli uomini per team che possono lavorare sulla monoposto, 80 in totale, quindi immaginati Carlo quante persone sono dovute rimanere comunque nelle sede dei rispettivi, certo, team, quindi è tutto un po' ovattato. Sì, cronaca non nera ma cupa per la Ferrari, prime prove, decimo e dodicesimo rispettivamente, Leclerc e Vettel, mentre indovina chi sono i primi due, anzi indovinatelo voi perché Mara lo sa perfettamente, però non è difficile, è domanda stracciata, sempre il Figlio del Vento di qui sopra. Pronto? Oddio, sì. Eccoci, Mara. Eccoci, sì. Dicevo delle prove di stamattina, sempre il Figlio del Vento di qui sopra, primo, secondo, sì. Bottas, Ferrari decimo e dodicesimo, molto male. Carlo, dai, diciamo che è solo la prima sessione di vivere già di una stagione che sarà magari meno lunga di quanto ci aspettavamo di vivere. È vero, è comunque una Ferrari è una sessione della Ferrari da rivalutare assolutamente. Però diamo alla cronaca quello che è della cronaca, diciamo che comunque Charles Leclerc ha fatto segnare il decimo tempo a un secondo e uno, Sebastian Vettel il dodicesimo a un secondo e due, non hanno usato il compound più morbido, cioè la gomma rossa, sì, usata dagli altri là davanti, ecco. hanno comunque usato le gomme gialle, uno step più dure. È logico che è tutto un po' da rivalutare, Carlo, certo, anche se poi certo. La Ferrari su finire la prima sessione in aspetto da passo gara qualcosina ci ha detto, insomma qualche nota positiva ce l'ha data. Più che valutare questa cosa, comunque valuterei la partenza della Ferrari, tutti aggiornamenti, un po' di messa, sottotono rispetto a avversari quali Mercedes e Red Bull che insomma invece si sono presentati già belli effervescenti. Sì, l'ultima cosa che ti chiedo è l'ufficio faccia in casa Ferrari, passando davanti al box cosa vedi? Senti il rumore dei coltelli? Abbiamo sentito prima la copertina questo strano compleanno di Vettel che accanto a Leclerc, guardando tutti negli occhi salvo Leclerc, ha detto mi hanno semplicemente chiamato per dirmi che non facevo più parte dei loro piani, di cercarmi un altro posto. Sì, ci sono stati tanti detti e non detti di quella vicenda e di quello che sarà il divorzio di Sebastian Vettel alla fine di questa stagione, Carlo. Lui ieri si è tolto un po' di sassolini dalle scarpe durante la conferenza stampa, non è che ci ha girato tanto intorno su questo argomento, sul fatto che comunque non renderà vita facile al compagno di squadra in questa stagione, pur comportandosi comunque quale da professionista sarà, però insomma lui dice io sono un professionista, corro anche per me stesso, quindi quello certo. che dovrò fare in pista farò. Quello che ci ha detto Mattia Binotto, che abbiamo sentito anche e in qualche modo incalzato su questa cosa, perché ieri abbiamo sentito la versione di Sebastian Vettel, ci sono rimasti qualche dubbio, perché comunque Mattia Binotto alla presentazione della monoposto, ai test invernali, ci aveva detto comunque Sebastian Vettel è sicuramente la nostra prima scelta, e sentire ieri Seb che dice che non gli è stata comunque messa nessuna proposta sul tavolo, qualche dubbio c'era rimasto. Chiaro. Quello che ci dice Piazza Binotto è che non si è smentito, lui dice sì, sarebbe la nostra prima scelta, però sono cambiate tante cose, soprattutto durante il periodo Covid, nell'affrontare quel tipo di situazione e poi nel pensare al futuro. Carlo, quello che sappiamo noi è che non è piaciuto al versante Ferrari l'atteggiamento di Sebastian quando gli è stato chiesto di decurtarsi in parte lo stipendio per affrontare proprio questo periodo emergenziale, che poi da lì ovviamente non ci sia stata poi più nessuna proposta concreta sul tavolo, quello ce l'ha certo. confermato, quindi diciamo che la situazione è così. Quello che dico è c'è un ragazzo un po' dispiaciuto dopo come è andata questa cosa con la squadra con cui lui sperava di coronare il suo sogno, cioè di vincere un titolo come Michael Schumacher. Beh, più che dispiaciuto sembra incazzato duro. Grazie Mara, ti vediamo su Sky. Sì. Ciao. Ciao Carlo, ciao, buona ciao. Continuazione, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Grazie Mara San Giorgio. Professor Teruzzi, buongiorno. Buongiorno. Senti, buongiorno a tutti. Black is the color, mi sembra, della macchina, della tuta di Hamilton, ma anche dell'umore di Vettel, ma anche delle prime prove dei primi tempi della stagione per la Ferrari. Beh, un po' presto per capire come gira il fumo, sì. Anche se il fumo gira come girava prima, non a caso due Mercedes e la Red Bull davanti, poi quanta fatica sta facendo, farà in queste gare la Ferrari, lo vediamo forse domani in qualifica, possiamo capirlo. Questa cosa di Vettel per me è scandalosa, cioè è dispiaciuto dopo un mese e mezzo, lo dice. Hai ragione. Lo dice alla vigilia di un Gran Premio dopo un mese e mezzo di silenzio, quasi due mesi. O non lo dici oppure l'avrei detto a suo tempo, c'è stata una discussione, lui è un dipendente Ferrari strapagato dalla Ferrari fino a fine stagione, punto. Cioè, secondo me queste cose qui sono secondo me assurde, cioè qual è stata la trattativa non la so, che la Ferrari abbia potuto pensare di fare a meno di Vettel l'abbiamo detto tutti in questi anni, sì. 20 volte, sì. Che abbia fatto un progetto futuro senza di lui non fa scandalo da nessuna parte, punto, no. Poi se arrivi alla vigilia di una corsa che è già critica per il tuo team e fai una cosa del genere, quando dici io sono un grande professionista, beh insomma non lo so. No, il problema è che se l'abbrivio della stagione è questo qui, la vedo complicata arrivare a un certo punto, se questo già dice mi hanno chiamato semplicemente per licenziarmi, la prima cosa che ha detto, non farò sconti a nessuno perché tanto che me ne frega non è il caso, mostro tutta la mia rabbia. Allora, a questo punto io credo che non sarà semplicissimo arrivare alla fine di una stagione, peraltro, e questo è un altro tema, in cui si prende il mare senza sapere, senza vedere l'altra parte, no? Senza sapere dove si va. Vedremo, no? Che poi dopo le gare sono dettate anche da circostanze diverse. C'è da dire che a questo punto tocca a Leclerc mettersi davanti e buonanotte suonatori. No, cioè, è anche una responsabilità sua, perché come dire, Leclerc la scuola è finita e quindi deve stare davanti a Vettel. Sì. Poi la gestione lì per lì, vedremo, ma vedremo in tutti i sensi. Cioè, il problema è proprio questo, no? Cioè, il grado di professionalità che ha un pilota anche in una circostanza come questa, cioè, sapendo che va via. La storia è piena di piloti che hanno fatto il loro dovere da professionisti dentro, certo, una situazione come questa da fine rapporto, no? Allora Sainz cosa fa? Guida per la McLaren, ma valuta se rischiare un po' di più, visto che non lo fa. Giorgio, in questo momento sono tutti da un'altra parte, no? Ma nelle macchine come nelle moto, già tutti i contratti, nella maggior parte dei casi, per altri team per l'anno prossimo, quindi è un discorso che puoi moltiplicare n volte. Ma sì, cioè sta nel senso di responsabilità di ciascuno, insomma, no? Certamente non è, secondo me, il modo migliore per affrontare un momento che comunque ha dentro già delle criticità tecniche dichiarate, insomma, in qualche modo, no? Vabbè, poi io vedo un messaggio, uno dei tanti WhatsApp, ha ragione Terruzzi, e lo dico da grande stimatore di Vettel, ma se Vettel è incazzato, secondo voi quanto girano a Binotto? Ecco, la posizione della Ferrari a questo punto quale deve essere? Ma sai, Binotto è uno che non parla di queste cose, non fa mai polemiche a mezzo stampa o dichiarate. È uno che, cioè, il problema è che qui non è soltanto la questione Vettel. Allora, prima prova dopo 130 giorni di silenzio, la Red Bull dice il DAS non va bene, minchia. Siamo tutti a dire quanto ha copiato la Racing Point, che va come una palla di fucile dal primo giro, quindi con gli assetti già pronti, quanto ha copiato la Honda, che porta uno step di motore perché la Honda è stata autorizzata a fare lockdown in agosto. Ma a me mi sembrano tutti dei matti. Cioè, siamo sempre un po' lì, no? Con queste scorie al centro della scena che tolgono un po', secondo me, un po' di gioia da spettatori, ci mettiamo dentro anche noi, sì. Peraltro di fronte a una ennesima ipotesi di vittoria di Hamilton con la Mercedes, cioè questi qui devono cominciare un po' a pensare che la gente dopo un po' si stufa. Sì, se non l'ha già fatto, certamente. Sì, cioè, insomma, stamattina guardavo le prove, ho detto, già siamo alle polemiche sul DAS che c'erano a Barcellona, che non si può fare, cioè, basta. Ho voglia di dire un po' di brio, un po' di gioia, un po' di agonismo e basta, no? Insomma, però sì, come valuti invece, cioè, questa ripresa? È chiaro che il fattore campo in Formula 1 non esiste. Prima ci raccontava Mara San Giorgio, clima da, insomma, asettico, come è normale che sia. I Gran Premi sono tutt'altra cosa, soprattutto per quello che c'è dentro intorno ai box. Si parte con un calendario che è aperto, ovviamente, perché conosciamo le prime tappe. Si arriva a Monza e poi chi lo sa, arriverà al Mugello dopo Monza, credo, il 13, sì. Perché lo comunicheranno, no? Sì, sono nove gare. No, il problema è la ripetizione sulla stessa pista, secondo me, cioè, al di là del pubblico, non pubblico, perché poi secondo me quando comincia la corsa possiamo anche dimenticare che il pubblico non ci sia sulle tribune, ma il problema è che se domani o domenica Hamilton dà 5 secondi o 5 decimi al giro a Verstappen, dico una, no? Sì. E non è che vai a vedere il campione di domenica prossima in attesa di sviluppi, non ce ne saranno. Chiaro. Cioè, è un po' questo, no? La replica sulla stessa pista rischia di diventare proprio una replica, no? E quindi, insomma, non il massimo dell'adrenalina nell'attesa di rivedere una corsa che ha dentro per forza di cose gli ingredienti della gara prima, no? Certo, certo, è chiaro. Se... Per il resto hanno bisogno di recuperare i diritti, c'è tutto un problema di soldi comprensibile, molto rilevante dietro a tutto questo, quindi è una sorta di emergenza. Beh, stesso discorso per il del calcio, no? Più o meno stessa cosa. Sì, sì, con un sacco di problemi, perché molta gente, per esempio, non solo da quattrini per mettere un marchio, ma per fare comunicazione, per portare a sua volta dei clienti in pista, tutto un movimento di denaro, connesso al denaro attorno ai Gran Premi, che così salta al di là della corsa, proprio secca. Sì. Devi chiedere dei crediti per il futuro, Giorgio. Se ti dico invece che potrebbe essere la grande stagione di Verstappen, tu cosa dici? Firmo, metto su 2 euro perché sì, per me è il favorito, o comunque è l'unico che può dare un colpo di vita a sto mondiale, cioè che è attrezzato anche per farlo, secondo me. E quindi secondo me è l'uomo dell'anno, o comunque è candidato a essere l'uomo dell'anno. Sì. Con il tifo di tutti, perché l'idea che ci sia un'alternativa a questo monologo, lungo monologo, peraltro meritatissimo, di Hamilton, cioè non ho niente contro Hamilton, intendiamoci. Certo, però, no, nessuno di noi. Lo dico. Semplicemente per spezzare l'egemonia, invece da Leclerc, cosa ti immagino, cosa gli chiederesti, al di là del fatto di smettere i panni da prima elementare, cioè da inizio della carriera, e di indossare quelli di leader? Cosa si può chiedere a sto ragazzo? No, lui deve fare il leader, una squadra che avrà delle difficoltà con questa situazione, con un compagno così, come dire, scomodo per lui e per tutti. A sua volta che sta scomodo Vettel, perché anche Vettel sta in una situazione di difficoltà, quindi mi aspetto che faccia la sua parte in pista e che comunichi, che faccia il leader quando i motori sono spenti. Deve fare quel salto lì. Anche perché qui c'è, come dire, una scommessa che lo lega alla Ferrari, che si giocherà dal 2022 in avanti, no? Cioè è un viaggio che deve portarlo a vincere il mondiale, e lui deve fare la sua parte dentro una squadra che è complessa, con una pressione che non ha nessuno, perché guidare per la Ferrari, fare il primo pilota Ferrari, è una bella responsabilità. Senti, c'è da preoccuparsi per il futuro della Formula 1 tutta intera, perché in questo periodo ne abbiamo sentite tante, tra team in difficoltà, team che chiudono i battenti, team in vendita, papà russi con molti soldi pronti a comprare il team per far correre il figlio. Mi sembra che non ci siano grandissime così certezze per il futuro. Forse c'è un po' da preoccuparsi. Ma sì, cioè, ci sono delle condizioni economiche che si muovono attorno alla Formula 1, come attorno a tutti, a qualunque attività, in questo momento critiche. Mi sembrano molto lenti nel cambiare rotta un po' tutti, cioè ognuno è preso dai propri interessi, no? Mi pare di capire. Per cui raramente un'idea, magari una buona idea, un'evoluzione, viene stoppata perché manca l'unanimità, perché sono un po' barocchi nell'elaborare delle reazioni rispetto al panorama, no? Ma devono farlo, perché non basta ridurre i costi del budget cap, sì, per garantire un futuro, serve ben altro, sia nella formula dell'evento, secondo me, sia nel rapporto con il denaro e con che cosa fare, essendo grandi squadre. Cioè, allora, la strada della Power Unit è stata un boomerang, diventa un boomerang, perché fare quei motori lì che costano un occhio della testa significa impegnare grandi case che sono Ferrari, Mercedes, Renault e Honda, no? Nessun altro può permettersi di mettere in pista una bestia così, una complicanza tecnica così. Però allora quel discorso che si è fatto tante volte, come è stato fatto nelle moto, dei team satelliti, nell'allargare, cioè, io non è che sto dicendo va fatto questo o quest'altro, sto dicendo che sono un po' fermi rispetto a un panorama che si evoluzione. Sì, incupisce, però non è solo evoluzione, anche involuzione. No, evoluzione nel senso che cambia molto rapidamente, cambia. E assume dei contorni che non sono abituali per questo mondo, che in effetti, hai ragione tu, sembra un po' fermo sulle sue posizioni. Volevo chiederti invece, tornare al Black, volevo un tuo pensiero, una tua opinione su quella Mercedes nera, su quel team che, ne parlavo l'altro giorno, sembra quasi così legarsi in maniera quasi emotiva al suo leader, investire su quel che resta, su quel che sarà ancora della carriera di Hamilton. Qualcuno dice mossa di marketing, qualcun altro dice invece una coraggiosa presa di posizione. Il tuo pensiero su questa vicenda qual è? Allora, intanto secondo me è un atto dovuto rispetto a quello che Hamilton, che è il loro pilota, il pilota che gli ha vinto tutto in questi anni, ha manifestato in modo clamoroso in queste settimane. E posso dirti che mi è piaciuto da morire, perché quell'immagine di Hamilton è iconica, la famosa foto che conosci benissimo. Sì, certo, una volta tanto, poi devo dire, su un tema così è anche, quindi è quasi inevitabile che una star come Hamilton si muova, no? Tirando dentro, mobilitando un mondo. Io sono dell'idea che purtroppo queste l'evoluzione di questo tema dipende dai singoli individui, indipendentemente da quello che vedi attorno. Cioè, lo penso anch'io. Tutti, cioè, non è che vedendo una Mercedes nera un razzista dice beh, cambio idea, no, non dubito. Però il fatto che lo sport o una star dello sport così importante esca un po' dall'ambito solito dell'assetto dei cavalli e dica no, un attimo, secondo me serve sempre, penso ai ragazzi, ai giovani, e mi sembra che la Mercedes sia semplicemente andata dietro rispettando una posizione del suo pilota di punta, del suo pilota di riferimento. Poi se vogliamo vedere che dentro questa cosa qui c'è il rinnovo del contratto, sì, però non penso nemmeno che la discussione sul rinnovo del contratto di Hamilton passi attraverso il colore delle macchine in Austria. No, non lo penso nemmeno io. Va detto però, Giorgio, che rispetto al passato, tu dicevi, viene quasi normale per una superstar globale spendersi in questa maniera. Non è stato sempre così normale. In tutta questa vicenda abbiamo comunque visto in ogni campo, in ogni sport sportivi, spendersi personalmente come non avevamo, lasciamo stare la famosa mano guantata che ha fatto la storia del mondo, però abbiamo visto comunque atleti spendersi in prima persona in maniera importante. Sì, beh, intanto è abbastanza clamoroso, e questa è una ragione per la quale a un certo punto la gente si muove, che dalla mano guantata di Tommy Smith e John Carlos a oggi siamo ancora qui con un problema di questa rilevanza. No, secondo, gli Stati Uniti hanno un presidente come Trump, e quindi questo istiga o comunque autorizza di più un gesto di protesta, perché il tuo presidente, ha un atteggiamento di scarsa sensibilità su un tema così rilevante. No. Io credo che ci sono dei momenti in cui le persone che hanno, come si dice, che sono, io la parola mi fa schifo, ma che sono influencer, abbiano il dovere di muoversi, di segnalare, piuttosto che segnalare un prodotto commerciale o una linea di abbigliamento o una stupidaggine, no? Per cui certo, secondo me ci sta che che nel 2020, di fronte a dei fatti peraltro di una gravità e di un'evidenza così mostruosa, bestiale, la gente si muova, o chi può dire, o chi ha la facoltà di dire, ha la posizione per dirlo, lo dica, insomma. Sì, in questo Lewis merita un applauso, questo l'abbiamo detto dal minuto zero, perché ripeto, non sempre aveva dato questa immagine così forte di sé. Sì, merita un applauso lui, meritano un cartellino giallo i tanti che in situazioni simili non fanno niente, perché noi che siamo in Italia e non abbiamo dei fatti così teletrasmessi, pubblici, così drammatici, eclatanti, però se penso al calcio, la movimentazione, la protesta, gli atteggiamenti di molte star del calcio rispetto al razzismo che si riscontra ogni domenica negli stadi è molto più debole. Certo, grazie Giorgio, davvero. A voi, a te. Un abbraccio. Ciao Giorgio Taruzzi. Fermiamoci per la borsa, poi apriamo il capitolo del calcio. ci collegheremo con Pardo, avremo Pierpaolo Marino per la vittoria udinese ieri sera e affonderemo le mani nella crisi della Roma ormai palese. Tifoso di Vettel, tanti auguri a lui, ma mi sembra proprio sul carrello dei bolliti. Aveva la possibilità di riscattarsi vincendo il mondiale da separato in casa, ma mi sa che quest'anno la Ferrari gli ha dato una macchina veramente scarsa. Speriamo di, che Leclerc ci faccia sognare. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Tutti convocati. Abbiamo giocato contro la Lazio, contro il Napoli, che sono due squadre forti del nostro campionato, siamo stati superiori. Solamente la Juventus non siamo mai riusciti a superare. Credo dopo stasera di poter dire che quest'anno arriveremo davanti. Dopo l'1-0 sentivo troppe chiacchiere. L'errore ci può stare, ma non ci può stare che butti una partita come oggi, perché oggi la partita ce l'avevi in mano. E se qualche mio giocatore pensa che in queste nuove partite ne hanno fatte scampagnate, non hanno capito nulla. Non è stato un problema fisico, è un problema mentale, perché dobbiamo ritornare a essere la squadra che ha giocato sempre bene. È importante recuperare il giocatore mentalmente. Questa vittoria mancava da troppo tempo e era quasi diventata un incubo per me. Una squadra che vuole essere propositiva, come cerchiamo di essere in certi momenti, ha anche bisogno del tonico del risultato per per avere un feedback positivo, per capire che è sulla strada giusta. Voci degli allenatori che hanno giocato, vinto, perso ieri sera. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, ciao, ciao. Dammi un radio tweet che poi saluto Pierpaolo Marino che ci sta ascoltando. No, vi stavo ascoltando, insomma, mi pare che La differenza che esiste in questo momento fra Hamilton e Vettel e i motivi per i quali sono in questo momento agli onori delle cronache siano talmente diversi come forse non sono mai stati in tutta la loro carriera, e fa un certo effetto perché stiamo parlando comunque di due grandissimi piloti, quindi il radio Twitter è su questo. Poi adesso andiamo sull'Atalanta che è qualcosa di incredibile. Sì, Pierpaolo Marino intanto ieri sera con la sua Udinese ha direttore generale, ha vinto a Roma. Ciao Pierpaolo, grazie. Ciao, buon pomeriggio, saluto anche Pierluigi. Ciao. Mancava tanto la vittoria, Sì, mancava, ma diciamo pure che la squadra giocava bene, produceva un grande numero di occasioni da gol. Credo che per 4-5 partite di seguito siamo stati la squadra che produceva più occasioni da gol in assoluto in Serie A. E poi però nel rapporto gol occasioni era la peggiore, quindi però dal punto di vista della filosofia di gioco e della prestazione la squadra non aveva mai deluso. Poi non dimentichiamo che venivamo comunque da sole due sconfitte consecutive dopo quattro risultati utili consecutivi. Sì, quindi insomma, non eri granché preoccupato? No, preoccupato no, perché quando la mia lunga forse potreste definirla anche lunghissima esperienza mi ha insegnato che il gioco sempre paga e che in questi casi il tempo è un galantuomo, quindi diciamo che poi sei preoccupato perché ciò deve accadere prima possibile per quello che è il meccanismo, che è un frullatore che bisogna poi fatturare punti quando non c'hai i risultati, è chiaro. Certo. E quindi, ma sono contento soprattutto per l'allenatore, per la squadra, perché anche durante il lockdown hanno lavorato benissimo e si vede anche da come la squadra approccia a livello di condizione fisica, non solo tecnica. Vero, poi Pierluigi, brava l'Udinese ieri sera a inserirsi e a giocare con le paturnie della Roma, onestamente. Sì, è chiaro che così come non era stata fortunata a trovare l'Atalanta prima, giocando una buona partita, pur persa, stavolta invece ha approfittato, ha saputo approfittare del blackout ormai completo di una squadra che scende in campo scarica, e insomma qui anche l'allenatore diciamo non, sicuramente non è il principale responsabile di questa situazione. Ma c'entra anche poco, dubbio. Posso dire. Sì, c'entra poco, però non è nemmeno, devo dire, in grado di fare quello che forse è un miracolo in positivo, insomma, cioè, prende atto della difficoltà psicologica che ha in questo momento la squadra, ma sull'Udinese anch'io non ero preoccupato. Chi ha visto Torino-Udinese, ad esempio, tanto per citarne una, sa che il calcio poi nella partita secca può darti dei risultati diversi, ma poi appunto non devi disunirti, devi continuare a credere nel cammino. Il Torino meritava di vincere probabilmente col Parma nella prima partita post lockdown, e poi invece con l'Udinese un pareggio, almeno un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Tornando alla Roma, è una situazione difficile da spiegare, difficile da capire, perché veramente è un momento, sembra il giorno zero o l'anno zero. È una squadra che, io l'ho detto mille volte, dal punto di vista della continuità di rendimento e di risultati in questi anni non ha fatto male. Poi Pallotta certamente ha fatto troppo trading, forse in certi momenti l'ha anche dovuto fare, troppo lontano fisicamente, ha sbagliato clamorosamente secondo me alcune uscite dal punto di vista della comunicazione, ma insomma, se guardiamo la continuità di talenti lanciati da questa squadra, anche secondo me la base tecnica non è da buttare via. No, assolutamente. Però assolutamente. Adesso è completamente svuotata. E d'altra parte, tu dici difficile da spiegare, poi ne parliamo anche con Roncone più tardi, però difficile da spiegare. Sì, Pierpaolo, tu sei uomo di calcio, esperienza lunghissima, dicevi, ed è giusto. Sì, anche a Roma, anche un ex della Roma. Appunto, anche a Roma vuoi bene. Ieri ci avevi i derby, sono state tutte le squadre, c'era Atalanta-Napoli. Maria gioca derby ogni a questo punto ogni tre giorni, No, quadrangolare. Ieri. No, ma se pensi ai miei 40 anni di carriera, però sono solo sei certo. Le squadre dove sono state. Ieri c'era questa cosa. Però sai benissimo da uomo di società che è difficile a spiegare, dici per Luigi, secondo me non è poi così difficile. No, I casini societari vanno in campo, Sì, Pierluigi ormai ha un linguaggio quasi da manager, perché ormai la sua esperienza di vissuto lo rende anche capace di una sensibilità di problemi che si vedono dall'altra parte della scrivania e non per chi va a vedere il campo. E devo dire che diceva sempre Italo Allodi, che è stato uno dei miei mentori, forse un più grande manager della storia del calcio italiano, diceva sempre che non c'è squadra forte senza società forte. E quindi un po' le squadre a volte sono specchio anche di quelle che sono le problematiche delle società, cosa per esempio che qui a Udine abbiamo un sostegno di un club organizzatissimo e di una proprietà solidissima che dà delle certezze a tutti, che ci consente anche di superare momenti un po'. Non voglio dire difficili, ma momenti che hanno delicatezza di approccio, quindi io non voglio assolutamente ergermi a maestro, però per riprendere parole di Luigi sono d'accordo sul fatto che non è possibile prescindere da una società forte per avere una squadra forte. Senti, stai già pensando alla prossima stagione? No, siamo concentratissimi su quella, però abbiamo un reparto sportivo che io dirigo come direttore dell'area sportiva, che è ben articolato per togliermi questi pensieri e poi farmi andare alla sintesi quando sarà il momento opportuno. Sì, d'altra parte Pier, adesso Pierpaolo Marino può anche non ascoltare, però la classifica sia in testa che in coda ormai ha una faccia che sembra che assomiglia a qualcosa di definitivo, non trovi Pierluigi? Allora, secondo me la notizia vera di ieri è che ci sono due squadre che sono Atalanta e Napoli, che poi non lo faranno e forse non devono neanche farlo, voglio sentire Pierpaolo, perché poi non è che lo puoi decidere a tavolino i carichi di lavoro, però l'Atalanta da ieri sera è praticamente certa del quarto posto, il Napoli da ieri è praticamente certo che la sua priorità diventa la Champions League. Ecco, ragionando razionalmente ci sarebbe forse da fare un po' di carico di lavoro adesso per arrivare in forma fra 40 giorni. A me dispiace per l'Atalanta che non ci sia il quarto di finale di Champions League fra poche ore, perché credo in questo momento sia quasi imbattibile. Sì. In coda secondo me meno, perché in coda ci sono ancora tante variabili, quindi secondo me ancora, insomma, chiaramente la classifica in questo momento conforta l'Udinese, ma credo che sia soprattutto la prestazione a confortare l'Udinese, non è il vantaggio. Beh, sono sei punti, però diverse squadre dietro, già come cuscinetto. No, è un vantaggio, però lì secondo me è lunga, lo dico sinceramente. Il porto per Udinese sta nel gioco nel fatto che sta bene fisicamente. Sì, Pierpaolo, prima di salutarci risponde a Pierluigi: devono Napoli e Atalanta, farebbero bene in questo momento a concentrarsi su quello che verrà ad agosto? Ma secondo me, se prendono sul serio questa parte del campionato, significa prepararsi bene per quello che succederà dopo, perché a volte non è nel risparmio energetico che si trovano, oppure delle empatie cerebrali che si trovano le situazioni per fare meglio quando si riapproccia alla Champions League. Io credo che invece vada studiato bene il minutaggio nelle rotazioni, perché questa parte del campionato prevede giocare ogni 2-3 giorni e potrebbe portare a dei logori fisici. Il vantaggio loro è di mantenere, ma hanno allenatori che lo sapranno fare certamente, di mantenere la concentrazione di tutti attraverso rotazioni intelligenti che portino tutta la rosa ad avere un minutaggio giusto, logico, prima della Champions. Io credo che l'Atalanta possa stupire anche lì, perché sì, in un turno unico è partita secca. Il fatto di affrontare squadre con un gap tecnico superiore, perché senza offesa per nessuno, l'Atalanta va oltre i limiti del proprio contenuto tecnico dei giocatori grazie a una gestione irreprensibile fisica, atletica e tattica. E quindi io penso che con il turno unico e con la condizione che ha l'Atalanta, e che non ho dubbi che manterrà, possa assolutamente essere anche una sorpresa e una scheggia impazzita di questa parte finale della Champions. Non c'è dubbio, assolutamente sì. C'è Fabrizio Roncone già collegato, lo interrogheremo dopo sulla Roma, dopo il traffico, però dagli una parola di conforto sulla Roma che hai battuto ieri sera. No, di conforto è che hanno affrontato un Udinese che meritava di non perdere con l'Atalanta pochi giorni prima, e questo va detto. Meritava, come diceva Pierluigi, di vincere a Torino, cioè non era quella squadra che è arrivata con la classifica reale che ha, ma è una squadra che secondo me era difficoltosa da affrontare, soprattutto per una Roma che poi era molto, diciamo così, in difficoltà dal punto di confusa, vista di uomini cardine che gli mancavano, e dal punto di vista anche del un po' di rilassatezza che dopo uno scontro diretto con il Milan, perdendolo, puoi avere, insomma. Quindi ci sono motivi per approcciare bene anche questo finale di campionato, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Va bene, grazie per Paolo. Arrivederci. Ciao, ciao, buon lavoro. Non so se sei soddisfatto, Fabrizio. Non so se ti ha consolato. No, ci vuole molto alto. Ci vuole molto alto. Ma molto alto. Ve lo dici dopo il traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Quella col Milan era una Roma che camminava in campo. Questa sera, quando è rimasta in 10, è stata una squadra un po' diversa. Un consiglio che posso dare, che io avevo dato ai miei giocatori, di non ascoltare le radio romane. Io dissi: io, signori, parlo solo con le radio nazionali, non con le radio del raccordo anulare, dentro il raccordo anulare. A Roma è l'esaltazione, era questo, che quando vai bene è una cosa super, appena vai male vai nell'inferno. Dunque, Fabri, insomma, mi dispiace, ma Capello, che è un grandissimo uomo di calcio, un uomo vincente, non dice la cosa più semplice e più importante, e cioè che lui aveva un grande presidente che si chiamava Sensi, che gli mise a disposizione una squadra formidabile, che rovinò una famiglia, perché l'acquisto di Batistuta di fatto segnò diciamo l'inizio del precipizio economico della famiglia Sensi, mentre questa Roma, quella che lui commentava, quella che abbiamo visto, quella che stiamo osservando in queste settimane, è una squadra senza presidente, o meglio, è una squadra con un presidente tragico, che ha deciso di vendere, che non ha mai creduto in questa squadra, in questa società, è venuto per fare il suo mestiere, quello di speculare, aveva intuito il business dello stadio, non si è innamorato né di Roma, e questo già, come dire, apre squarci sulla sua psicologia, e non si è innamorato neanche della Roma. L'ha considerata alla stregua di una pizzeria che lui deve, immagino, monetizzare. Ci si comporti così quando uno compra una pizzeria in un'altra nazione, in un altro paese, al di là dell'oceano. Quindi adesso, diciamo, tutte le chiacchiere sono davvero inutili, tempo sprecato, dobbiamo raccoglierci in preghiera, parlo, diciamo, per i tifosi della Roma, e pregare che questo signore non si faccia decida a vendere al più presto la Roma. Dopodiché, si apre qualche interrogativo, perché non vende Pallotta? Perché non gli danno abbastanza soldi, mi sembra evidente. Esatto, e allora però il punto è questo: non gli danno abbastanza soldi, ma se continua così gliene daranno sempre meno, perché la pill di una società è fatto anche di risultati, è fatto di entusiasmo, è fatto di pubblico, non è fatto soltanto del marchio, perché se così fosse ci sono, il Venezia varrebbe quanto? Sì. Non è questo, compri un club di calcio, non il Colosseo, tu dici. Sì, questo... non basta il Colosseo, no? Sì. Non basta il Colosseo, ci devi mettere dentro delle cose, dei valori, dei contenuti, delle cose, dei numeri, delle vittorie che qui non ci sono mai state. Però così lui sta perdendo anche il valore dell'immagine della società. Sì, allora mi chiedo, perché non acceleri la vendita? Perché ormai in Champions non ci va, quindi i soldi della Champions non li prendo. Qui rischia, se continua così, di dover fare i preliminari per l'Europa League. Sì. Beh, d'altra parte, Pierluigi, è comprensibile lo sfogo di Fabrizio Roncone. Sì, ma assolutamente. Io credo che la pandemia non sia stato un dettaglio in questa vicenda, nel senso che da quello che ci racconta anche Perinazzo, che ci raccontano tanti colleghi che stanno seguendo la vicenda, la conclusione sembrava veramente a un passo. Il ragionamento non la piega, cioè è chiaro che più si va avanti così, questo dal punto di vista, facendo una valutazione di trading, perché è di questo che stiamo parlando, beh, insomma, questo è il momento peggiore anche della stessa vicenda di Pallotta, sicuramente come risultati, insomma, io l'ho detto qualche minuto fa, lo ribadisco, se noi guardiamo questi anni della vicenda di Pallotta, secondo me i problemi sono di comunicazione, di assenza della società, ma dal punto di vista dei risultati, dei piazzamenti, non sono stati anni negativi della storia della Roma. Poi è chiaro che il tifoso vorrebbe alzare dei trofei, questo è un altro discorso, però se la guardiamo in un'ottica prettamente commerciale, insomma, la Roma è stata molto continua in questi anni, questo è il momento peggiore, quindi il suo ragionamento non fa una piega. Io prima, adesso eravamo con Paolo Marino, penso che manchi tantissimo la presenza di un uomo di campo, di società, strutturato, esperto, che rappresenti la società, ecco, questo è veramente quello che secondo me manca, perché poi prestazioni come quella di ieri non si spiegano come quella di Milano, perché per certi versi sarà ancora peggio, non si spiegano, secondo me la squadra è una squadra più debole di quelle che la precedono, sicuramente anche del Napoli, che è più dietro in classifica, cifra tecnica, ma non è una squadra che può approcciare questo momento della stagione però credo testa sia con la proiezione di tutto qua in campo, di tutto quanto diceva Fabrizio. No, Fabrizio, appunto, non hai un punto di riferimento, insomma, questi, i calciatori sono così, adesso è inutile che possiamo parlare per 10 ore su come dovrebbero essere, il senso del dovere, lo stipendio che arriva regolarmente, l'onore che devi mettere nel lavoro, I calciatori sono così, i calciatori sono quelli che l'altro giorno, ieri, il Liverpool l'ha perso 4-0 perché aveva mollato. Insomma, i calciatori sono delle figure particolari. Noi non possiamo chiedere adesso ai calciatori della Roma di impegnarsi, perché questi non sono così, punto. Ma il problema adesso, qui a Roma comincia, ieri sera già serpeggiava Fonseca ha sbagliato, i calciatori. Il problema è marginale dell'allenatore e dei calciatori. Sono d'accordo. Questa è gente che a Trigoria non ha un punto di riferimento. Sono 2 anni che il presidente non si fa vedere. È un'entità astratta. Le decisioni da qualche mese le prende un signore che sta a Londra. Uh-huh. Insomma, è una situazione oggettivamente surreale. E quindi surreale. Il prodotto sul campo non può che essere questo. Grazie Fabrizio. Il prodotto sul campo è semplicemente questo e non può essere che questo. Sono d'accordo non con può te. Sono d'accordo con te. È la proiezione ortogonale di quanto succede. Ho 15 secondi. Domenica ci sentiamo tutti convocati weekend. Intanto io ringrazio Valeria Bernardi, Gianmarco Ferronato, Jacopo Lanfranchi e Claudia Schiattone. Ciao a tutti. Venga, è stato una montagna russa. Ciao Radio 24. Saluti!